lost. Dimmi di sì, amor de mi vita, in questa periferia che brucia. Nella mente luce il neon, l'alcol, mentre rollo una Lucky Strike, la sveglia alle 3 di mattina. Siamo cristi tatuati di tarocchi d'angelo nero onirico, no. Siamo possedute anime alla veglia alle 3 di notte di un lucifero di note. Sveglia fratelli, svegliate le vostre doti, rotte pure i nostri sessi di prostitute, perlate colombiane al sapore di caramelle, incartate da 3 assi il tuo, di cuori manca il poker, io sotto come un cocker rocker, passi assi calpestano lussi e fasti, Brunello di Montalcino e pasta ai pasti, occhi chiusi vogliono riempire, ingeriamo così veleni del male per rapire visioni astrali, per e gin nel nostro bicchiere, tormentate alve, trafitte da simmetrie, bitch, sere severe, sere nere, in cui scolare lussi profondi, fare quello che piace per costruire le nostre storie, la nostra bocca ora sa mentire, ha imparato a digerire menzogne e ire. Lo senti il vento di strada, direttamente nella tua corteccia cerebrale, prodotto di una mente collettiva, come opera d'arte dada, celebrazione del suono, noi verso il suono puro, pure pare fino al nulla, danza nell'immenso urla. Lo senti il vento di strada, direttamente nella tua corteccia cerebrale, prodotto di una mente collettiva, come opera d'arte dada, celebrazione del suono, noi verso il suono puro, pure pare fino al nulla, danza nell'immenso urla. Fare del bene stronza, nessuno ti riconosce niente, rimani nella pozza, colore dei soldi, quadri di santi nelle menti, aria ormai ferma e grigia, grazia ligia, la bocca asciutta, senza il profumo tuo, dilla tutta, ma la bugia aiuta a non impazzire, la verità fa mentire, le ire sanno mentire, veritiere, bugie fanno sognare per farci volare. Lo senti il vento di strada, direttamente nella tua corteccia cerebrale, prodotto di una mente collettiva, come opera d'arte dada, celebrazione del suono, noi verso il suono puro, pure pare fino al nulla, danza nell'immenso urla. Lo senti il suono di strada, direttamente nella tua corteccia cerebrale, prodotto della mente collettiva, come opera d'arte dada.